Un buongiorno a Elisa Guidelli, autrice di Girls vs Boys, e benvenuta ai microfoni di Radio Città Fugico. Buongiorno, grazie dell'invito. Partiamo un po', dal principio. Che storia hai voluto raccontare all'interno di questo libro? La storia è la storia di Stella, una ragazza di 13 anni, appassionatissima di calcio, è la bomber migliore della sua squadra, ha un fratello più grande di lei di un anno che l'ha introdotta in questa passione, ma che di fatto è meno brava di lei, perché lei arriva prima alla Serie A rispetto a lui. E questa è la storia di una rivincita in qualche modo, ma allo stesso tempo di una lotta, perché Stella si ritrova a lottare non solo contro suo fratello, che è invidioso del suo risultato, ma anche in famiglia, perché il padre ha sempre pensato che la carriera sarebbe stata del figlio più grande, invece sembra proprio che la figlia più piccola, tra l'altro femmina, abbia preso il sopravvento. Quindi questo scatena un po' le problematiche interne ed esterne alla famiglia e a Stella. Quanto uno sport può aiutare a superare certi limiti che a volte, come ad esempio in questo caso, sono semplicemente imposti da stereotipi di genere? Ma io mi sono resa conto che negli ultimi anni, tra l'altro, sono stata ispirata anche dalle storie di tante calciatrici e di tantissime altre sportive che hanno utilizzato proprio lo sport per imporsi. Mi sono resa conto che è una cosa che sta aumentando questo nel mondo di oggi, fortunatamente. E tante donne riescono ad affermarsi anche in sport che prima sembravano appannaggio solo dei maschi, ma in realtà erano appannaggio dei maschi perché non avevano modo le donne di parteciparvi. Quindi mi pare anche che con gli ultimi mondiali di calcio le ragazze abbiano dimostrato ampiamente di essere bravissime e di non dovere niente a nessuno, ma anzi, hanno reso lustro anche al mondo del calcio con la loro bravura, quindi è meglio che se ne parli. Ha raccontato anche qualche cosa di sé all'interno di questo libro o è semplicemente una storia che hai voluto raccontare? Sai, in realtà in ogni libro finisce sempre un pezzettino dell'autore, ma in questo caso mi sono identificata molto con le lotte delle ragazze che ho intervistato, con i pregiudizi che sono dovuti, che hanno dovuto superare nella loro carriera. Ho avuto modo di confrontarmi con alcune calciatrici, di parlare con loro. E ho sentito molto vicina, nonostante io sia in un ambito completamente diverso, la loro lotta, alle volte anche la loro sofferenza, perché effettivamente sottostare a dei pregiudizi o a delle frecciatine solo perché sei una donna non è bello, e sono contenta comunque che loro ce l'abbiano fatta, quindi sono state di grande ispirazione. Qual è, diciamo, il principale messaggio che dovrebbe essere appreso dalla lettura di questo libro? Ma guarda, in realtà io quando racconto una storia è difficile che mi metta lì a pensare prima al messaggio, di solito esce da solo, me ne accorgo quando ho i confronti con i lettori e in questo caso sono stata fortunata perché ho avuto sia lettori giovani, giovanissimi, sia lettori genitori che hanno letto il libro, che l'hanno apprezzato. E credo che un po' il messaggio sotteso che accomuna sia i genitori che i ragazzi è stato quello della necessità di non mettere più paletti, di non mettere più dei limiti, perché fondamentalmente non servono a nulla. Questo è un po', diciamo, quello che ha accomunato le fasce d'età diverse. Grazie a Perfetto. Elisa Guidelli. Grazie mille.